Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Venerdì 20 agosto 2004. Il giornalista Enzo Baldoni è scomparso in Iraq insieme al suo autista, accompagnatore e interprete Garib. Baldoni collabora con il settimanale Diario diretto da Enrico De Aglio. Le ultime notizie sono di 24 ore fa ed è stata una sua telefonata dal telefono satellitare in cui assicurava la famiglia che stava bene dopo che una mina aveva colpito un convoglio della Croce Rossa su cui lui si è imbarcato che doveva portare dell'acqua a Najaf. Per cui le possibilità sono che lui abbia continuato il viaggio da Baghdad a Najaf e sia andato a Kufa, che è una cittadina a 20 km da Najaf. Io gli ho parlato per email, a questo punto sono 48 ore fa, lui era già stato a Najaf ed era poi ritornato a Baghdad e aveva intenzione di nuovo di tornare a Najaf e poi di partire per il Kurdistan. Nato a Città di Castello, provincia di Perugia, nel 1948, sposato e padre di due figli di 21 e 24 anni, Enzo Baldoni lavora da tempo a Milano. All'attività di pubblicitario ci arriva dopo essere stato un muratore in Belgio, scaricatore alle Halle, fotografo di Nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete e tecnico di laboratorio chimico. Il pubblicitario Emanuele Pirella gli fa capire che essere copy è meglio che lavorare. Traduttore di fumetti, appassionato di zen, Baldoni lavora come freelance per numerose testate giornalistiche nazionali. Diario, Linus, Specchio della Stampa, Venerdì di Repubblica. Enzo Baldoni ama viaggiare. Nel 1996 si reca in Chiapas, dove incontra il subcomandante Marcos. Poi raggiunge Birmania, Timor Est, Colombia. E dei suoi viaggi ama raccontare. Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti, vedere la gente morire e respirare l'odore della guerra, come Benjamin Willard. L'odore del napalm la mattina in Apocalypse Now. Napalm, signore! Invece sono lontano mille miglia da questa mentalità. Molto semplicemente sono curioso. Voglio capire cosa spinge persone normalissime a imbracciare un mitra per difendersi. Non ho una particolare paura della morte. L'ho conosciuta abbastanza bene. Alla mia sono andato vicino un paio di volte. Poi mi sono morte diverse persone tra le braccia. Ormai è una vecchia compagna di viaggio. Enzo Baldoni si trova in Iraq con un accredito del settimanale Diario e il 20 agosto 2004 sparisce nel nulla. Scomparso, volatilizzato. Anche l'ambasciata italiana a Baghdad ha perso il contatto con il giornalista. Non c'è ancora eccessiva preoccupazione. Enzo Baldoni non ha un telefono satellitare e quindi potrebbe trattarsi di semplici difficoltà di comunicazione. 23 agosto 2004, Maurizio Scelli, responsabile della Croce Rossa, intervistato da Giuseppe Cruciani, non sembra però preoccupato per la sorte di Enzo Baldoni. Poche ore prima, dall'Iraq, era giunta una notizia tragica: il ritrovamento del corpo senza vita dell'autista di Baldoni, Garib. Le ipotesi sono due. Quella più auspicabile è che l'autista l'abbia lasciato qualche parte e lui sta facendo il suo lavoro sempre un po' oltre i limiti, perché uno a cui piaceva rischiare. L'altra è che sia stato vittima di questi balordi che hanno da un lato ucciso l'interprete, dall'altro pensano di farne chissà che cosa, ovviamente mantenendolo in vita, perché del suo corpo non c'è traccia, e non essendoci traccia, mentre c'è traccia di quello dell'autista interprete, è ragionevole pensare che sia stato preso da qualche parte. La moglie di Baldoni si è rivolta a lei, alla Croce Rossa. Perché si è rivolta a voi? si è rivolto a noi perché bisogna che ci sia un canale che non è diplomatico istituzionale ma proprio dettato dalla base, magari basta l'amico di uno di questi banditi a quattro soldi che ha avuto curato suo figlio in ospedale che dice lascialo perché questo è amico degli italiani. E cosa avete fatto finora? Abbiamo attivato tutti questi canali, sia sciiti che sunniti, canali che sono della massima serietà, sono persone che ci hanno già dimostrato più volte di poter essere in grado di acquisire notizie importanti e quindi siamo aspettati. Il 24 agosto 2004 l'emittente araba Al Jazeera mostra un video dell'esercito islamico. Il gruppo rivendica il rapimento di Enzo Baldoni e intima all'Italia di ritirare le sue truppe dall'Iraq entro 48 ore in cambio della vita dell'ostaggio. Nel video Enzo Baldoni parla in inglese. Sono Enzo Baldoni, vengo dall'Italia. Ho 56 anni, sono un giornalista e faccio anche volontariato per la Croce Rossa. Io aiuto gli altri. Sono venuto in Iraq per scrivere un nuovo capitolo del mio libro. Il direttore del settimanale diario, Enrico De Aglio, giudica comunque positivo aver visto il collega Enzo Baldoni. Noi abbiamo accolto con un enorme sollievo, abbiamo visto con un enorme sollievo in un'edizione straordinaria del telegiornale al TG5 e Enzo Baldoni, perché l'abbiamo visto in buona salute, abbiamo visto che è in piedi, abbiamo visto che è presente a se stesso, che non era stato né percosso né ferito, che è in condizioni di assolutamente ottime, insomma, di parlare e di esprimersi, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Questa quindi è la prima cosa importante dopo quasi 5 giorni di assoluta mancanza di notizie e quindi di angoscia crescente. C'è la questione di questo ultimatum che lui ha letto a nome dei suoi rapitori. L'ultimatum riguarda il governo, riguarda le truppe italiane. Allora la cosa che ha fatto Diario immediatamente è un messaggio che ha fatto arrivare attraverso i canali, soprattutto Al Jazeera, che possono essere visti immediatamente in Iraq, di chi è Enzo Baldoni, ma soprattutto di che cosa ha fatto negli ultimi 10 giorni della sua permanenza in Iraq, che sono diverse iniziative fattive e concrete che dimostrano la sua simpatia umana nei confronti delle sofferenze del popolo iracheno. E queste sono l'organizzazione dei 2 convogli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per portare viveri ed aiuti a Najaf, e poi una storia che era assolutamente sconosciuta, anche noi l'abbiamo conosciuta solo oggi rileggendo tutte le email, il trasporto di un militante di Fallujah che ha perso tutte e 2 le gambe in uno scontro con l'esercito americano all'ospedale di emergency a Sulimania, che era l'obiettivo ultimo del viaggio di Enzo Baldoni. Noi con questo vogliamo dire soltanto questo, che vogliamo che tutti sappiano e riconoscano l'autonomia, l'indipendenza e l'umanità del giornalista che è in questo momento nelle mani di rapitori e la sua assoluta estraneità a qualsiasi logica di governo o qualsiasi logica militare. E dopo la trasmissione del video parla anche il responsabile della Croce Rossa italiana, Maurizio Scelli. Io sono fiducioso perché mi auguro che poi alla fine trapeli appunto tutto quello che stiamo facendo, che ha un grosso peso. In quelle ore il settimanale Diario scrive un appello per la liberazione di Enzo Baldoni. In poche righe ricorda il ruolo del giornalista in Iraq, non un inviato embedded, ma un cronista di pace. Vorremmo far sapere agli uomini che lo hanno in custodia chi è Enzo Baldoni. È una persona animata di sentimenti d'umanità per le persone che soffrono nel mondo. È un giornalista indipendente e assolutamente autonomo. È un collaboratore del nostro giornale, Diario. Settimanale libero nei confronti del governo italiano. Nel suo breve soggiorno in Iraq, Enzo Baldoni è stato determinante nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa, arrivati a Najaf il 15 e il 19 agosto. Anche Guido e Gabriella, figli di Enzo Baldoni, si rivolgono ai rapitori con parole commosse, piene di speranza. Noi vi chiediamo di poterlo riabbracciare vivo. Babbo, un bacio forte da tutta la famiglia. Enzo Baldoni è in Iraq come uomo di pace, oltre che come giornalista. Il ministro degli esteri Franco Frattini, in un'intervista ad Al Jazeera, sottolinea come il giornalista Enzo Baldoni era impegnato per alleviare le sofferenze del popolo iracheno. Liberate subito il nostro ostaggio. Il commissario Scelli e la Croce Rossa in genere stanno svolgendo un'opera molto meritoria ed hanno ovviamente buoni contatti sul terreno. Il 26 agosto, intorno alle 23, l'epilogo. Emittente Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Baldoni. Il ministro Frattini parla con i responsabili della televisione araba e poi racconta le sue impressioni a Radio 24. I responsabili di Al Jazeera, da noi sentiti oggi, hanno detto di non avere un video, ma una fotografia digitale, che è quella che è stata fatta vedere all'ambasciatore Buccino. Una fotografia digitale in cui si vede il corpo di Enzo Baldoni. Lo si vede in una situazione, in una condizione che non può definirsi cruenta, ma Al Jazeera ha ritenuto che anche quella fotografia fosse un'immagine non adeguata per essere pubblicata e per essere quindi diffusa. Alfredo Mantica, sottosegretario del governo di centrodestra, descrive così le ultime ore di vita di Enzo Baldoni. Noi abbiamo avuto notizia un po' prima, evidentemente, di quando è stato comunicato. La notizia arriva dall'ambasciata italiana, che ha avuto la notizia da Al Jazeera, abbiamo informato prima direttamente noi la famiglia. Si tratta naturalmente di una notizia abbastanza inaspettata, insomma sembrava che ci fossero dei contatti, dei negoziati in corso. Il cauto ottimismo era poi solo strettamente legato a un clima che si era creato e alla trasmissione televisiva, che era diversa dalla truce di trasmissione dei primi quattro rapiti, però in 48 ore dare un giudizio era estremamente difficile. Tra poco, dopo la pausa, il giallo e nero su Enzo Baldoni. Giallo e nero di Daniele Biacchissi. In Italia si indaga sulla morte di Enzo Baldoni. Si torna indietro al 9 agosto 2004, quando il giornalista raggiunge l'aeroporto di Baghdad e si collega con il telefono con Radio Città del Capo, un'emittente privata di Bologna. Ma proprio la situazione normalmente tesa per un paese in guerra, l'aeroporto deserto, tutto presidiato dalle guardie private. La prima raccomandazione che mi hanno fatto è assolutamente, se non c'è uno fidato che non ti viene a prendere, rimani in aeroporto. Io me ne sono fottuto, ho preso un taxi e anche se con qualche patina poi sono arrivato tranquillo al Palestine. È una città tesa, nervosa, anche ieri dei poliziotti hanno sparato in aria per un'infrazione, cioè hanno fermato uno, questo qui si è messo a urlare, ha spiegato i poliziotti hanno cercato di fermarlo, la folla è saltata addosso i poliziotti hanno iniziato a fare la pistola, hanno sparato un bottinale. Il 10 agosto Enzo Baldoni racconta la vita a Baghdad. E in questo momento stiamo girando nella circolazione di Baghdad. La situazione è decisamente tesa, vediamo passare molte Humvees, molti mezzi corazzati americani che si dirigono verso Sadr City. Abbiamo visto passare dei veicoli pesanti con i missili, quindi probabilmente stanno andando ad assediare Sadr City. E il giorno dopo chiama da Fallujah, martoriata dai bombardamenti e dagli sputi. Siamo sono stati a Fabrugia, io e Garrido, che è il mio interprete amico Angelo Custode soprattutto, sono andati per consegnare degli aiuti e dei denari a una organizzazione non governativa e siamo andati per così dare un saluto di solidarietà. Il giornalista di questo primissimo giornale indipendente a Fallujah. In quei giorni, lo ricordiamo, Enzo Baldoni lavora per la Croce Rossa Italiana. Enzo Baldoni è stato determinante nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari della Croce Rossa Italiana e della Mezzaluna Rossa, arrivati a Najaf il 15 e il 19 agosto. In entrambi i casi è riuscito a entrare nella città, a consegnare viveri e medicinali e trarre in salvo donne e bambini, mettendo a rischio la propria vita. Pochi giorni prima aveva preso contatti con Teresa Sarti, presidente di Emergency, chiedendole aiuto per operare Mohammed, un iracheno che mentre accompagnava la moglie a partorire in autoambulanza era stato colpito da un carro armato americano. La moglie e il bambino erano morti. Enzo è stato rapito mentre stava tornando a Baghdad per accompagnare Mohammed all'ospedale di Emergency a Suleiman. Il 20 agosto 2004 viene rapito da un'organizzazione specializzata in sequestri di occidentali, come ricorda l'inviato del giornale Fausto Biloslavo. L'esercito islamico dell'Iraq, la prima volta ne sentiamo parlare verso febbraio-marzo, quando alcuni volantini, manifestini vengono affissati all'esterno della moschea di Al-Ramadi, un altro epicentro del triangolo sunnita, in cui questi fantomatici mujahideen dicono: ah, noi abbiamo combattuto al fianco di Al-Qaeda in Kuwait, facciamo parte di questa internazionale del terrore, lo dicono loro, continueremo a combattere l'occupazione americana in Iraq. Fino a quel momento erano solamente parole, poi sono passate le vie di fatto, che abbiano quantomeno partecipato al linciaggio, al massacro brutale delle guardie private americane a Fallujah, che poi, ricordiamo, scatenò l'assedio di Fallujah con tutto quello che accade. 7 settembre 2004, al termine dell'audizione del direttore del SISMI, Niccolò Pollari, secondo il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti, Enzo Bianco, qualcosa ad un certo punto avrebbe modificato in modo rapido l'esito delle trattative. Forse il passaggio di mano di Enzo Baldoni da un gruppo ad un altro. Qualche volta abbiamo avuto la sensazione di possibili accavallamenti di trattative da parte di organismi diversi, non solo i servizi ma anche altri organismi, e vorremmo capire di chi è la responsabilità politica di coordinamento, a chi spetta di dire tratta tu o non trattare, per evitare che ci siano, ripeto, accavallamenti che possono essere anche dannosi e talvolta addirittura anche molto dannosi. In generale, quando c'è un accavallamento di trattative, certamente non è un vantaggio. Non siamo in grado di poter escludere che un eccesso di trattative o di interventi non possa avere procurato un danno. Non è in grado di escluderlo anche il direttore del SISMI. Sono storie di trattative nascoste, di patti inconfessabili in zone di conflitto, storie di operazioni coperte. Mario Portanuova, di Diario, mette in relazione l'uccisione di Enzo Baldoni con tutti gli altri giornalisti rapiti e alcuni di loro uccisi in Iraq. Diario spesso ha criticato Shelly perché alcune versioni iniziali sul rapimento di Baldoni non si sono dimostrate vere, però dobbiamo dire che in questo caso Shelly ha detto quello che è un po' il segreto di Pulcinella, e cioè che le attività per liberare gli ostaggi italiani dovevano essere tenute quanto più possibile segrete agli americani. Sappiamo che gli americani hanno un'altra strategia sugli ostaggi, cioè quella di non trattare. E questa cosa è confermata da numerosi elementi. La stessa Simona Torretta ha raccontato che al momento della sua liberazione un problema era non solo scappare dai rapitori, comunque avevano deciso di consegnarle, ma non far sapere niente agli americani. Sappiamo com'è andato il caso Calipari. Gli agenti che lavoravano con Calipari nel SISMI, i cosiddetti calipariani, confermano che addirittura c'era il timore proprio per i nuovi arrivi americani, i nuovi soldati americani arrivati a controllare la strada dell'aeroporto di Baghdad, dipinti come gente dal grilletto facile. La stessa preoccupazione era emersa nel corso della liberazione. I due ostaggi francesi, due giornalisti, Georges Malbruno e Christian Chesneau, liberati dai rapitori, dai loro rapitori, che erano gli stessi di Enzo Baldoni, l'esercito islamico in Iraq, con un'azione sono stati consegnati ai servizi segreti francesi. Nel loro libro emerge anche lì la preoccupazione dei servizi segreti francesi di non far sapere agli americani della liberazione dei due ostaggi fino a che i due ostaggi non fossero arrivati a Parigi, perché si temeva comunque un intervento degli americani. Qual è la ragione di questo timore? La prima è che quando si liberano degli ostaggi, si fanno delle trattative, si viene a contatto con fonti, con canali che inevitabilmente portano prima o poi ai rapitori, e quindi si teme che l'intervento degli americani insomma tenda a arrestare o comunque a individuare queste persone, e quindi a individuare i rapitori facendo saltare le trattative, bruciando i contatti. Giornalisti rapiti in Iraq come Giuliana Sgrena, l'inviata del quotidiano Il Manifesto, salvata dal sacrificio del funzionario del SISMI Nicola Calipari, che si era recato a Baghdad per liberarla. Purtroppo, pur stando in Iraq, non sono riuscita a sapere molto di quello che può essere successo e che ha portato a questa tremenda conclusione. Soltanto che il terreno in Iraq è estremamente difficile, quindi qualsiasi fraintendimento, qualsiasi errore, qualsiasi voce che circola può determinare la tua fine. Questa era la cosa a cui pensavo molto anche io quando ero ostaggio, perché mi rendevo conto che la mia vita era appesa a un filo, la nostra vita in Iraq è appesa a un filo, e purtroppo quello di Baldoni si è spezzato, perché probabilmente non riusciremo mai a saperlo. È una cosa terribile, ma a volte non si sa neanche perché si sacrifica la propria vita, si perde la propria vita, soltanto per la passione di fare il proprio lavoro. Questo è veramente troppo. E giornalisti come Enzo Baldoni, quelli che portano solidarietà in terre martoriate dalla guerra, dalla violenza, dalla fame, dalla morte. Massacri senza senso, di conflitti senza fine, ancora oggi nel nuovo millennio. Il racconto di Enzo Baldoni, mentre cammina nei corridoi del reparto Grandi Ustionati dell'ospedale della Croce Rossa Baghdad, è certamente la testimonianza di un uomo di pace. Mi hanno portato per i reparti e io non sono un tipo particolarmente impressionabile, ho visto questi ragazzi bruciati. Però c'era una bambina di 4 anni, a metà bruciata, che mi ha fatto un sorriso e insomma, compreso che mi sono messo a piangere. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Editing e sonorizzazione Silvio Lorenzi.